Die cadunde ruda de ruda, die cadunde ruda, rabise die, berta esta cucurubiki tu, Nostra Signora mia ita poistu, Nostra Signora mia ita bovistu, cantus a mano, cantus a mano. Nostra Signora, Nostra Signora, dai candela, dai candela, de verdad, Nostra Signora, Nostra Signora, cantus amara, cantus amara, cantus amara, dai candela. Signora mia, intappo visto a... Nostra Signora mia, intappo visto, cantus a mano, enne, cantus a mano. Cantus amare.